stato vuoto vedere rappresentata la commedia dei tuoi sogni come un'immagine trebola. Nello specchio d'acqua della vita, nel suo disidio e falsità. Una follia tenue e sospesa tra il desiderio e la realtà oscillante. Come minuti che passano, senza sosta, senza sosta. Parabole senza uscita, impressioni di follia. Parabole senza uscita, impressioni di follia. Come il mio cuore che batte, batte, batte. Parabole senza uscita, impressioni di follia. Parabole senza uscita, impressioni di follia. Centinaia di cervelli che seguono lo stesso suono, su e giù, guardando i tuoi occhi che brillano, come se ora fosse scuro di colpo. Puoi continuare a muoverti, mentre ti chiedo se è finita, puoi continuare a muoverti.